Pimbau, passa cabaça, pimbau, a cabaça aral. Arau, pimbau, passa cabaça, pimbau, cabaça. Bim, pau, passa a cabaça. Bim, pau, a cabaça, arau. Pacatu, pacatu, pacatu, canuta. Pacatu, pacatu, bim, pau. Pacatu, pacatu, pacatu, canuta. Pacatu, pacatu, passa a cabaça. Pacatu, pacatu, pacatu, canuta. Pacatu, pacatu, bim, pau. Pacatu, pacatu, pacatu, canuta. Pacatu, pacatu, bim, pau. Bim, pau, passa a cabaça. Bim, pau, a cabaça, arau. Arau, pim, pau, passa, cabaça, pim, pau, cabaça.

stavo andando. Yeah. Bye. Thank you. It's got to be the reason.